Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Di domotica si parla ormai da anni. Vi ricordo che l'idea è che una buona parte degli elettrodomestici e degli apparati tecnologici di casa possano essere gestiti centralmente da una sorta di piccola centrale di comando che prima era un computerino da parete, mentre ormai di solito è un'app per cellulare oppure per tablet. E la cosa avrebbe senso. Per esempio, con la domotica si può fare in modo che gli elettrodomestici energivori funzionino nelle ore con la tariffa elettrica più bassa, che gli impianti di illuminazione e climatizzazione funzionino magari in proporzione alla presenza effettiva di persone e così via, e tutto questo fa efficienza energetica. Poi si hanno anche altri benefici, soprattutto se si cominciano a introdurre in casa anche altri sistemi come antifurto, antincendio, sensori per l'allagamento, per le fughe di gas. Allora oggi vi parliamo di una iniziativa che punta a dare una accelerata a tutto questo. È di un gruppo di aziende tra cui Indesit, Bitticino, Gruppo Loccioni, Ariston, altri ancora, che si sono unite a formare un consorzio che si chiama HomeLab, il quale ha elaborato un nuovo standard, una specie di vocabolario informatico universale che sarà riconosciuto da tutte le apparecchiature di coloro che appunto aderiscono al consorzio. Ne parliamo con Ernesto Santini, che è direttore sviluppo e tecnologie e sistemi residenziali di Bitticino ed è in prima linea in questo progetto HomeLab. Buonasera Santini. Sì, buonasera a tutti. Mi dica, qual è il problema di fondo che voi pensate di risolvere con questo linguaggio? Diciamo, il linguaggio, giustamente, come dice lei Melis, serve proprio per sincronizzarsi e fare delle cose in comune, quello che si dice in gergo interoperare. E quindi quello che noi vogliamo creare è il linguaggio con cui le macchine si parlano e con il quale eventualmente si rapportano anche con schermi, terminali, telefonini. Però questo linguaggio c'è sempre stato, ce ne sono anche diversi in realtà. Il problema è che ogni costruttore parlava una lingua diversa, no? Sì, è così, perché guardi, penso che la confusione sia stata proprio generata da noi ingegneri, no? Molto amanti della parte tecnologica, ma un po' autoreferenziali ogni tanto, cioè ci spieghi. Guardi, noi ci stiamo parlando al telefono, io lei sto usando probabilmente un apparato molto, molto sofisticato. Qui in radio con un microfono, sì. Vai, microfono e tanta elettronica. Io sto usando un telefono filare, quindi il protocollo di Meucci, sì, ecco, sì. Sono è fisso, non ha contenuti multimediali, però ci capiamo perché stiamo utilizzando l'italiano. Certo, no, quindi certo. La lingua ad alto livello che ci permette di interoperare è proprio la lingua italiana. Ecco, perché il problema era che diciamo la domotica assume un senso quando uno comincia ad avere appunto tanti apparati che si parlano fra di loro, ma non si riusciva a farli parlare perché la pretesa era di mettersi d'accordo su degli aspetti di dettaglio troppo tecnico, no? Non sulla lingua da parlare, ma sul tipo di filo, sul tipo di cornetta telefonica, e voi puntate a superare tutto questo appunto con un linguaggio più generico. Ci fa qualche esempio? Però un tipico problema di comprensione fra elettrodomestici. Ma vede, ad esempio, quando si vuole risparmiare energia ci sono diversi modi per farlo. Sì. Prendo l'esempio di una lavatrice, non so, ce ne sarà una che magari riduce la temperatura, un'altra che aumenta il tempo di lavaggio, una terza che può fare magari adottare una politica completamente diversa. Ecco, però tutte e tre, nell'ottica di questo linguaggio, risponderanno con metodologie diverse alla stessa frase, cioè ragazzi, risparmiate energia. Capiranno tutte e tre, risparmiate energia, poi ognuno farà a modo suo. Certamente. Ecco, senta, dalla promozione, diciamo, di questo linguaggio open, che tra l'altro è nato proprio in Bitticino originalmente, voi che cosa vi aspettate? Intanto la possibilità che marchi diversi finalmente parlino fra loro, magari questo farà entrare un po' più la domotica nelle case, ma c'è anche qualche altro effetto che ci aspettiamo? Sicuramente, ci aspettiamo di abilitare dei professionisti, dei ragazzi, delle aziende che vogliano trovare una collocazione in questo mondo a creare applicazioni per questo linguaggio, cioè a sviluppare quelle interfacce, sistemi di gestione, sì. Cioè sia hardware hardware che software, anche dei programmi, delle app da caricare sui tablet o sui telefonini per pilotare questi apparecchi che sono abilitati a parlare questo linguaggio. E a questo punto uno aggiunge un apparecchio di un qualsiasi di questo diciamo costruttore aderente al consorzio e dovrebbe funzionare. Questa è l'idea. La grande novità. Sì, sì. Grazie Santini. Arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.